RM 0921 423456. Va ora in onda qua e là tra una novità e l'altra. Da Angelo Arduino e Mario Lombardo, una felice giornata ai nostri radioascoltatori. Come sempre, un saluto particolare va ai nostri connazionali che ci seguono in ogni parte del mondo sul sito www.crmpradio.it. Bene, la scaletta di oggi. Intanto abbiamo in studio Angelo Miccichè, presidente del distretto turistico di Cefalù e dei parchi delle Madonie e di Imera, il dottor Francesco Randone, presidente Federalberghi Cefalù Madonie, Angelo Macaluso dell'agenzia turistica France Sicil, Flora Rizzo, presidente dell'Archeo Club, ricordando Nico Marino, e poi ci metteremo in collegamento telefonico con il presidente del Barcellona, Immacolato Bonina, e con il capo dell'ufficio stampa, Benedetto Orti Tullio. Come sapete, oggi il Barcellona, oggi domenica, perché dico, lo preciso perché questa trasmissione viene replicata lunedì alle ore 13:15, il Barcellona sarà di scena al Palatricoli per incontrare il Forlì in una partita di A2, quindi una partita molto importante, interessante. Abbiamo visto domenica scorsa l'incontro con il Napoli, c'erano più di 2000 persone, e quindi si prevede anche oggi una massiccia invasione da parte dei tifosi di Barcellona, ma non soltanto. Bene, io intanto ringrazio tutti, Angelo Miccichè, Francesco Randone, Angela Macaluso, Flora Rizzo, per la loro partecipazione a questa trasmissione, e vorrei iniziare con un argomento, dato che Flora ha dei problemi quindi di tempo, vorrei iniziare appunto con un tema che mi sta molto a cuore, che è quello di Nico Marino. Bene, si è svolta la seconda edizione di Conoscere il territorio, arte e storia delle Madonie, e sono degli studi in memoria di Nico Marino. Nico, chi non lo conosceva a Cefalù? Una persona di grande spessore, dotata di grande umiltà, uno storico che faceva della sua vita era un punto di riferimento un po' per tutti, aneddoti, personaggi di valore e non soltanto, senso dell'humor e soprattutto molta umiltà. Ecco, questo era Nico, è, come vi dicevo, è stato ricordato in due giorni di studio. Flora, come si sono articolati questi due giorni in modo succinto? Sì. Grazie dell'invito. In effetti ho qualche impegno domenicale, però sono qui per parlare appunto di questa iniziativa. Come dicevi, è la seconda edizione, una si è svolta lo scorso anno, praticamente a un anno di distanza lo scorso anno della scomparsa di Nico, e questo è il secondo anno della sua scomparsa. Questa è un'iniziativa che nasce all'interno dell'Associazione Archeoclub d'Italia di Cefalù, perché Nico era un nostro socio, un socio fondatore della nostra sezione, e soprattutto era la persona alla quale noi ci rivolgevamo per tutto quello che riguardava la ricerca storica del nostro territorio. Tutti ci rivolgevano, anche la radio si rivolgeva a Nico per quando si trattava di argomenti anche di natura storica. E infatti noi qualche giorno dopo, come associazione, dopo la scomparsa di Nico, ci siamo riuniti e abbiamo fatto un incontro, abbiamo anche valutato tutto quello che era stato, diciamo, il suo apporto alla nostra associazione, e soprattutto quello che ci veniva meno. Soprattutto c'era anche il desiderio fortissimo di portare avanti la ricerca che lui aveva messo in piedi nel nostro territorio. Lui l'aveva fatto attraverso una rete che aveva costituito con tantissimi altri storici locali, no? Poco noti magari alcuni, altri più noti, però storici che si riunivano, che si scambiavano informazioni, che si scambiavano appunti, scoperte e via di seguito. E allora abbiamo detto che la cosa migliore proprio per sia per portare avanti le nostre attività culturali e sia per portare avanti il lavoro che Nico faceva e quindi nel suo ricordo, ma soprattutto proprio per fare quello che lui faceva e che lui amava, era quello di creare un raccordo fra questi storici di cui lui faceva parte proprio come rete e di poi coinvolgerli in iniziative che appunto sarebbero state delle giornate di studi. In queste giornate di studi noi presentiamo ricerche assolutamente inedite che portano avanti i nostri storici su tutto appunto il territorio, e ci siamo già riuniti per il secondo anno consecutivo su questi argomenti che riguardano la storia, l'arte, ma anche la letteratura, la poesia, tutto quello che riguarda e che è cultura del nostro territorio. Questi atti, diciamo, delle giornate di studio saranno pubblicati e quindi saranno assolutamente messi a disposizione proprio sia degli storici ma anche di quelli che non lo sono ma amano semplicemente conoscere la propria storia e documentarsi, e quindi abbiamo proceduto in questo modo. L'anno scorso abbiamo fatto le due giornate a Cefalù. Da quest'anno abbiamo pensato di inserire in maniera più diretta anche il contesto territoriale, per cui abbiamo svolto una giornata a Cefalù e una seconda giornata a Collesano. Il prossimo anno sarà una giornata a Cefalù e una giornata a Polizio, a Castelbuono o a Caltautura, in una di queste località che fanno parte di questo nostro territorio. E quindi ci sarà questo rimando, ma soprattutto ci sarà questo lavoro che porterà e porta, perché devo dire gli storici sono molto contenti di questo, questi storici a scambiarsi tutte quelle che sono le loro ricerche e soprattutto ad avere per il nostro territorio una rappresentazione di quella che è stata la nostra cultura, che comincia a costituirsi con un carattere unitario, ecco, di mettere insieme una serie di elementi raccolte da più persone in più località e metterle insieme per farne una storia unica del nostro territorio. E questo ci pare l'aspetto più, certo, interessante. Documentazione, sì, che è importantissima. E io ho conosciuto Nico da tutta una vita. Quando ha costituito il gruppo dei Cavernicole, ricordo che gli scrissi il primo articolo sul giornale L'Ora, allora scrivevo per L'Ora, e dicendo di questo, che era nato questo gruppo, e da lì poi via via Nico, ma non soltanto Nico, Pio, Pollicino e tanti altri che facevano parte del gruppo, altri due, e cercarono di crescere difatti crebbero sul piano nazionale, partecipando a delle trasmissioni, noi mi ricordiamo Buona Domenica con di Maurizio Costanzo, ma anche altre trasmissioni erano sempre presenti e a livello nazionale avevano assunto una certa notorietà. Ricordo che Nico e Pio Pollicino portarono a Costanzo il mio libro Giudice Popolare al Maxi Processo, e Costanzo mi invitò per due volte sul palco lì e un'altra volta in un altro spettacolo estivo. E anche per questo motivo io li ringraziavo, e poi successivamente abbiamo partecipato insieme a una trasmissione a TRM a Palermo con il presidente Alfonso Giordano e i Cavernicole che prendevano la scena, proprio erano i padroni della scena, perché ci sapevano fare, perché sapevano cantare, perché sapevano fare cabaret nel vero senso della parola. E questo Manico era non soltanto il personaggio del cabaret, ma scriveva dei libri, ricordo che ne ha scritto parecchi, anche sul Mandalisca, anche se un opuscolo l'ha fatto insieme a Vincenzo Lombardo, al giornalista, che riguardava il castello di Ortolani di Bordonaro. E ne diceva, era copriva tanti campi, e soprattutto era, ecco, così come lo ricordo io, un personaggio umile. E ce n'era una cefalù di umile, io ricordo Pasquale Culotta, era come lui, aveva questo atteggiamento di umiltà, perché sono convinto, come diceva un grande scrittore, che il sentirsi superiore agli altri è indice di inciviltà. E Nico era una persona civilissima sotto questo aspetto, così come lo era l'architetto Pasquale Culotta, che io ricordo sempre con molto affetto, così come ricordo Nico. E un po' Nico ha fatto la storia di Cefalù, perché ha scritto parecchio. Francesco, tu lo ricordi? Ricordi Nico? Sì, così come credo Angelo Micì, che chi lo ricorda. Non so se anche io potrei dire una cosa. Angela Macaluso, una cosa. Ci ho lavorato anche. Sì. Dico strettamente personale sul ricordo di Nico, perché quello che avete detto voi è vero. Nico era una persona di grande umanità, così come devo dire. Posso dire la stessa cosa anche per gli altri componenti dei Cavernicoli, perché io il primo ricordo che ho da bambino, quando avevo 10 anni, all'inaugurazione della Baia del Capitano parteciparono i Cavernicoli e abbiamo delle bellissime fotografie che spesso commentavamo con Nico, con Antonio Augello, anche con Pio Pollicino, e anche per loro erano bei ricordi, perché era il periodo in cui, diciamo, iniziavano e avevano quel momento in cui la caverna era un punto di riferimento per quelli hanno tenuto a battesimo la Baia del Capitano, sì, loro avevano e devo dire tutti, anche gli altri, hanno avuto sempre personalmente nei miei confronti un affetto, devo dire, spesso volte anche commovente. Dico Nico, lo ricordo, e poi negli anni successivi ci siamo incontrati per tantissime altre cose e c'era sempre questo rapporto affettuoso, fraterno, che faceva spesso ricordare i periodi in cui anche loro facevano la festa della matricola negli anni 60, la festa della matricola. E devo dire, è una di quelle persone che credo non solo sono rimasti nel mio cuore, ma credo nel cuore di tantissimi cefaludesi. Hai perfettamente ragione, e credo che anche Angela Macaluso ha avuto l'occasione di conoscerlo. Io ho avuto, mi dispiace non aver avuto l'occasione di conoscerlo prima, nel senso che io sono a Cefalù da 13 anni ormai, per cui loro hanno molti più ricordi. Mi sarebbe piaciuto approfondire molto di più la conoscenza con Nico, ma per il mio lavoro io l'ho conosciuto perché ho avuto l'onore di, io faccio il tour operator, ho un'agenzia di viaggi e lui parlava benissimo, tra l'altro, il francese. Io in quei tempi, insomma, quando arrivai a Cefalù con la mia agenzia nel 2000, avevo tantissimi gruppi di francesi, lui conosceva perfettamente il territorio e devo dire che gli ho affidato tanti gruppi che mi scrivevano lettere bellissime, perché lui era una persona veramente a 360 gradi, cioè si occupava di tutto, ma soprattutto al di là dell'umanità era di una simpatia. Forse fuori dalle regole, perché i clienti mi dicevano, al di là di fargli apprezzare veramente le bellezze del nostro territorio, della nostra isola, in tutti gli aspetti. Scorrere sul computer, sì, infatti, le immagini di Nico, Leo, Leandro Parlavecchio, ma anche di Gigi Nobile, sì. Tra l'altro, proprio questa immagine che riprende Nico con la chitarra, considerate che la sera con i miei clienti era uno spasso, perché lui si portava dietro la chitarra e con i clienti proprio faceva serate goliardiche, insomma, negli alberghi. Quindi lo ricordo veramente con molto piacere e devo dire che manca a tutti noi, perché è una persona eccezionale. Ma credo che anche Angelo Micichè ha avuto occasione di... Beh, sì, certo, i ricordi sono... ormai dico, appartengono veramente al passato. Io ero compagno di scuola di Mario, del fratello di Nico, ma al di là di questo dico, poi c'è una collaborazione. No, vai. C'è una collaborazione professionale. Loro, parlo di Nico e dei Cavernicoli, sono stati i primi a creare un intrattenimento che a Cefalù. Che a Cefalù, diceva? Si è bloccato. Vai, sì. Che a Cefalù. Dico, sono stati i primi a Cefalù a portare un intrattenimento che veramente attraesse turisti e attraesse gente. Alla caverna, io ricordo ancora. Esatto. Era sì. ed erano indubbiamente personaggi che non si possono dimenticare, che hanno lasciato una traccia, ma che soprattutto, io dico, hanno dato tanto a Cefalù. E non so se tu volevi aggiungere qualcosa oppure posso concludere, diciamo, questo così, questo piccolo ricordo, ecco, dicendo che innanzitutto queste due giornate sono state molto partecipate, sia a Cefalù sia a Collesano, e soprattutto ci chiedono di continuare su questa scia. E poi desidero dire qualcosa su quello che Nico ci ha lasciato, perché chiaramente quando qualcuno ci lascia può lasciare delle cose materiali, ma molto spesso si lascia qualcosa di immateriale, e soprattutto alla città, ai concittadini, agli amici. Lui alla nostra associazione ha lasciato quello che appunto ci ha insegnato, ed è un atteggiamento, mi piace dire, caritatevole nei confronti della nostra storia, nel senso che una persona che studia, che si appassiona del passato e che ce lo ripropone attraverso i suoi studi, è una persona che ha un sentimento di carità nei confronti di quello che è stato, di quello che gli altri hanno fatto, e quindi lo ripropone e ce lo fa rivivere. E questo atteggiamento ritengo importantissimo, questa pratica che noi porteremo avanti di carità nei confronti di quella che è la nostra storia, sarà estesa sicuramente anche nei confronti di Nico, perché ci ha insegnato tutto questo, e quindi anche lui sarà ricordato sempre per quello che non ha fatto. Non c'è dubbio, io sai come me lo ricordo, quando fantastico, quando sono un po', me l'immagino Nico e Pio che cantano insieme come l'unna e vagano via ecco, forse con questo pensiero chiudo il discorso Nico e ne riapro un altro sul turismo. Io vi saluto e vi auguro buona domenica, esatto, buon lavoro, grazie per la partecipazione, grazie, tanti saluti a Marcello, grazie. Vi dicevo, riprendiamo questa trasmissione parlando di turismo. E abbiamo con noi Angelo Micichè, che è presidente del distretto turistico di Cefalù, delle Madonie e di Mera, e poi Angela Macaluso, abbiamo detto, dall'agenzia turistica France Sicilia, e Francesco Randone, presidente e rappresentante, presidente di Federalberghi, delegato mi precisa, di Federalberghi Cefalù Madonie. Angelo, tu intanto gestisci anche, hai un Alberi del Paradiso, e quindi tocchi con mano un po' il turismo di Cefalù, e puoi trarne un bilancio del turismo? Oramai siamo a ottobre inoltrato, quindi si può fare anche un bilancio, se vuoi, del turismo di Cefalù. Come è andata quest'anno? Beh, a guardare le presenze potremmo essere soddisfatti, nel senso che, sentendo i numeri di quello che succede nel resto della nostra nazione, a Cefalù le presenze hanno tenuto, anche gli arrivi, insomma, grazie a Dio siamo riusciti a superare una stagione che aveva come premesse dei numeri veramente preoccupanti. Noi tendiamo a attribuire questo a questa crisi nazionale e europea. In realtà il resto d'Europa ormai sta uscendo dalla crisi, sicuramente in Italia i problemi sono più grossi e noi ne abbiamo risentito soprattutto nei mesi centrali della stagione, parlo di agosto, i mesi che sono caratterizzati dalla presenza dei nostri connazionali, che in effetti sono mancati, e il numero è veramente preoccupante, se non sbaglio. Poi quindi ci sono stati meno italiani, molto meno italiani, molto credo un 25%, poi magari avremo i numeri più precisi, ma almeno un 25% di italiani in meno quest'anno una grossa fetta. Per fortuna recuperati nelle code, quindi sia all'inizio che alla fine della stagione, da un maggior interesse delle popolazioni europee, nord europee, e quindi in generale dagli stranieri. Ma per far arrivare questa gente dall'Europa avrete dovuto fare dei un po' di sacrifici, nel senso di stringere un po' il pacchetto, far pagare di meno il pacchetto vacanze, non è proprio esattamente, hai esattamente individuato qual è la difficoltà in cui ci troviamo, nel senso che questi numeri non dicono qual è la gravità della situazione, nel senso che per raggiungere e mantenere queste quote di mercato siamo stati costretti, ma è un problema generale siciliano, siamo stati costretti ad abbassare ulteriormente i nostri prezzi di vendita. E questo si registrerà nei nostri bilanci, i fatturati scendono e scendono pericolosamente. Questo è il vero dato da registrare, certo. Quindi non le presenze che ci dicono molto poco. Dovremmo preoccuparci dell'occupazione delle nostre strutture e in 10 anni siamo scesi dal 44% al 30%, quindi le nostre strutture, pensate a un'industria che sia utilizzata al 30% delle sue potenzialità. Qual è l'imprenditore che ha voglia di tenere in piedi un'industria? Certo. Noi lavoriamo al 30%. Anche questo è un numero che non ci dice niente se non lo confrontiamo con realtà simili alla nostra. Se guardiamo Malta, che è un 1/80 della nostra superficie, loro intanto stanno raggiungendo le presenze siciliane. E questo lo fanno con l'80% di riempimento delle loro strutture. Possiamo guardare le Baleari, riempono al 78%, contro i nostri 12 milioni di presenze ne registrano annualmente 120 milioni. Questo credo che sia realmente l'indice del fallimento di tutte le nostre politiche. Perché al di là della superficie della nostra regione, che è appunto 80 volte più grande di Malta e credo almeno 5 volte più grande delle Baleari, in termini di patrimonio ambientale e culturale, la nostra ricchezza è sterminata. Se non riusciamo neanche ad avvicinarci ai numeri di queste nazioni, che non è che abbiano poi costi tanto diversi dai nostri, per cui prezzi di vendita tanto diversi dai nostri, perché alla fine sono oscillazione povera. Sì, no, addirittura se andiamo a misurare la spesa pro capite del turista a Malta o alle Baleari, spendono addirittura di più. Cioè il paradosso è questo: spendono di più perché, avendo più servizi, riescono in quelle destinazioni a fargli spendere i soldi che noi qui, dico, certo, con tutte le difficoltà che abbiamo, non riusciamo a fare spendere. La stessa domanda la vorrei rivolgere ad Angela Macaluso, che gestisce l'agenzia turistica France Sicile. Io intanto in via Spinuzza, grazie mille intanto per avermi invitato e un buongiorno a tutti i radioascoltatori e teleascoltatori. Potrei dirvi che sì, sono qua in veste di amministratore dell'agenzia, del tour operator che gestisco da quasi 18 anni, a Cefalù da 13, altri 7 insomma li ho fatti sulle Madonie, perché io vengo da Polizia, anche se ora mi sento cefaludese a tutti gli effetti. Cosa dirti? Io ti posso solo dire che a me fa rabbia tutto questo. Io da anni che ne parlo, ma anche insieme a loro, perché abbiamo fatto un percorso insieme al distretto, con Angelo e Ciccio, molto spesso facciamo battaglie per questo turismo. E la cosa che a me fa rabbia è fare proprio, ne parlavo adesso con Ciccio Randone, fare il paragone sempre, costantemente con Malta, che Malta è una bellissima isola, ma è piccola, è piccolissima rispetto a noi. Noi abbiamo un patrimonio immenso che non riusciamo a sfruttare. Ecco, io infatti ieri, in occasione della Eco Cefalù che abbiamo organizzato, ecco, questa manifestazione che avete fatto, credo anche insieme a Mauro Caliò architettura, sì, da sì, parte di cui magari adesso poi vi dirò anche qualcosa. C'è stato un convegno, un momento di riflessione insomma sul turismo, sul gusto, sulle energie. Mi è dispiaciuto che non ci fosse molta gente, perché in concomitanza c'era l'evento dell'anno della fede, quindi l'inizio dell'anno della fede, sì, alla cattedrale, per cui c'era tutto Cefalù in cattedrale, per cui mi è dispiaciuto questo. Però devo dirti che sono venute fuori, sono emerse tantissime esigenze, ma soprattutto della realtà, l'ho detto infatti ieri in convegno, è che io credo che per quanto noi possiamo essere tutti convinti del contrario, la Sicilia non ha vocazione turistica, perché noi scambiamo la vocazione turistica per il regalo naturale che ci hanno dato sia i nostri avi, lasciandoci bellissimi monumenti, quali a Cefalù anche la nostra cattedrale, con quello che ci ha lasciato madre natura, tutto quello che possediamo, con la reale vocazione turistica, che non significa quello di doversi adattare, come abbiamo fatto finora in questo territorio, a quello che ci ha lasciato madre natura, i nostri avi. La vocazione turistica chiamata tale, che tanti paesi come Malta o come le Baleari sfruttano, è una qualità che individua intanto un preciso scopo, fa leva su specifiche competenze, perché finora le competenze del turismo, dico al di là di noi operatori che ci diamo da fare e che investiamo soldi e fatica, è stata lasciata in mano a nessuno, no? Anche Angelo Micichi, anche politicamente, i nostri rappresentanti regionali, insomma, siamo in mano veramente di persone che non hanno particolari attitudini al turismo, si freggiano di essere assessori piuttosto che al turismo, ma non lo sono stati, siamo stati completamente abbandonati. E poi la vocazione al turismo si avvale soprattutto di metodologie di azione coordinata e soprattutto di avere una visione strategica. Io questa visione finora non l'ho vista. Io ti dico, oggi sono quasi come rappresentante di Francis Hill, tu sai che io sono anche il consulente a titolo gratuito del sindaco di Cefalù per il turismo e gli eventi. Mi sono messa a disposizione proprio per dire, finalmente troviamo tra l'amministrazione, quindi tra la politica e gli imprenditori turistici, un raccordo. Allora, c'è stata questa apertura del sindaco, spero che continui, perché io sono a disposizione, io vorrei fare da tramite, ecco, perché vorrei che ci fosse, perché noi ce l'abbiamo questa volontà. La cosa assurda è che noi operatori abbiamo la volontà ad essere insieme, a creare rete. Ieri durante il convegno il presidente del parco, io sono stata felice di averlo avuto, perché anche lì vedi, quando ti dico non c'era visione, io prima non avevo contatti, ma credo che il territorio non avesse contatti col presidente del parco. Quello che c'è attualmente ci ha dimostrato proprio, l'ha specificato, io voglio, al di là del ruolo che ricopro alla regione, venire al parco e rimanere 24 ore su 24 all'interno del nostro territorio e mettermi a disposizione non solo del territorio bellissimo, ma soprattutto di voi operatori. Quindi che benvengano iniziative, chiamatemi, parliamone, creiamo rete tra le basse Madonie e le alte Madonie. Francesco, ecco, un bilancio. Tu sei il proprietario del Baia del Capitano, lo era prima tuo padre, il capitano Randone. Sì, diciamo, sono io e la mia famiglia. Che io mi sentivo onorato di essergli amico, sì, e grazie, quindi ora diciamo continui tu questa attività. Sì, diciamo che noi questa attività la continuiamo ormai, sono 34 anni, devo dire 34 anni, io ci sono nato, ci sono cresciuto all'interno della struttura, ma soprattutto sono cresciuto all'interno della realtà alberghiera, non solo cefaludese, ma anche sin da piccolo ho imparato a confrontarmi e relazionarmi con colleghi albergatori regionali, soprattutto provinciali e regionali. Per questo cerchiamo di guardare le problematiche non limitate solamente alla destinazione Cefalù, ma guardare un attimo un po' più lontano e capire dove siamo e cosa facciamo e dove stiamo andando. I colleghi che sono qui in studio, sono delle persone con cui parliamo la stessa lingua e quindi diciamo le stesse cose. E l'altro giorno, anche perché vivete gli stessi problemi. Viviamo gli stessi problemi. E allora l'altro giorno, proprio in Federalberghi a Palermo, dicevamo questo: che la regione Sicilia negli anni 60-70, oltre ad avere con Cassa del Mezzogiorno sviluppato finanziamenti a tasso più o meno agevolati per creare posti letto in Sicilia, poi praticamente la messa a sistema di questo turismo ha lasciato molto a desiderare. Ci sono delle destinazioni in Sicilia che riescono, e sono pochissime, a difendersi discretamente. E sono in particolare due, che sono una è Taormina, che lo sappiamo, e l'altra negli ultimi anni è San Vito Lo Capo, che è riuscita in 10 anni a quintuplicare le sue presenze, mettendo a rete un programma, un'organizzazione e anche un'operazione di marketing per la città, con supporto sia della politica o degli amministratori comunali e anche delle strutture ricettive. Per ciò che riguarda Cefalù, dico, se vogliamo tornare un po' un attimo sul... Ecco, entriamo un po' nel campo sulla, più specifico. Che riguarda Cefalù. Io qui davanti ho i dati dell'azienda di soggiorno, diciamo dell'ufficio turistico di Cefalù. Al 31 di agosto noi siamo perfettamente in linea con quelli che sono i cali nazionali. Abbiamo un calo del 22% delle presenze italiane. Ne accennava poc'anzi Angelo Miccicheri questo calo delle presenze italiane. Un aumento dell'8% delle presenze straniere, perché si è cercato di compensare il calo degli italiani spingendo un po' più i mercati, lasciando quindi i posti letto liberi e spingendo un po' i mercati stranieri. Mercati stranieri che sono a Cefalù prima di tutto quello francese, poi quello tedesco, e poi abbiamo delle belle realtà come quello belga e svedese, che negli anni si sono, diciamo, mantenuti, qualche anno un po' in aumento, qualche anno leggermente in calo, dico, però si riesce ancora a mantenere questi mercati che sono importanti per Cefalù. Il problema che ho sollevato una decina di giorni fa in qualche altro intervento giornalistico è che la domanda è: ma questo calo degli italiani in Italia, perché è un calo nazionale, da che cosa è dato? Dalla crisi che abbiamo in Italia, o forse è dato anche da alcune scelte politiche fiscali che penalizzano l'italiano a rimanere, mette e restare un altro dito nella piaga? Ora vi spiego, perché l'altro giorno mi hanno telefonato, mi hanno detto: guarda, ci ha fatto un intervento Briatore in televisione e ha detto le stesse cose che ci avevi raccontato tu l'altro giorno. Allora, se andiamo a guardare, noi abbiamo fatto una formazione 10 giorni fa a Palermo insieme alla Otis, che è la società che monitorizza tutte le isole del Mediterraneo. Abbiamo fatto dei collegamenti con dei professori sia delle Baleari sia delle Canarie, grazie al professore Ruggeri della facoltà di Palermo, e hanno dato una serie di slide e di dati sulle presenze soprattutto degli italiani in queste altre destinazioni, e noi siamo rimasti meravigliati come nel 2010, 11 e con i primi dati del 2012 gli italiani erano in aumento sia alle Baleari sia alle Canarie sia a Malta. Ma se avessimo visto forse anche la Croazia, probabilmente sono in aumento anche in Croazia. E come diceva prima Angelo Miccichè, ci hanno dato anche nelle slide la spesa media del turista a Malta, alle Baleari, che è circa 140 euro a Malta e 105 euro alle Baleari, mentre in Sicilia la spesa del turista è scesa a 85 euro. Allora, non è vero che in queste destinazioni ci si va a poco prezzo, nel senso che il pacchetto lo vendi a poco prezzo, ma poi non è un target medio-basso, perché poi se spendi di più vuol dire che hai motivo per spendere di più. Tra altre cose, sono in aumento, e mentre l'Italia, il turista italiano, è in calo. Allora dico, forse la tracciabilità, forse la preoccupazione che si è venuta a creare da Capodanno in poi ha anche messo l'italiano nella preoccupazione di farsi una vacanza in Italia e probabilmente prenotarsi un volo e andare all'estero e non avere la preoccupazione. È un'ipotesi che potrebbe avere anche dei fondamenti. Francesco, scusami se te, il regista Angelo Arduino ci chiede di fare una breve pausa, la facciamo e poi riprendiamo con piacere, questo certo. Discorso che è abbastanza edificante. Lo approfondiamo, sì. CRM Pubblicità. Arredamenti curati e confortevoli, studiati in ogni dettaglio, dal prodotto concepito per le esigenze di tutti a quello più esclusivo per soddisfare bisogni e desideri di ognuno. Arredi Madonia, mobili classici e moderni, un vasto showroom con esposizione di 25 modelli cucine Lube, dove potrete toccare con mano la qualità di cucine innovative che propongono soluzioni per ogni tipo di spazio e per ogni esigenza. Madonia Vincenzo e Figlio, una grande realtà sempre legata al territorio, che propone mobili fatti di materiali importanti e resistenti, sinonimo di qualità e al miglior prezzo. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro d'Oro. Mettiamo al servizio dei nostri clienti oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Telefono 0921 67 67 31. Un ambiente di grande fascino e ricco di atmosfera, dove gustare la genuinità di sapori raffinati e prelibati. Ristorante Pizzeria Kenzia, al Trappito da Nicola. Per una cena indimenticabile con piatti particolari, decorati con estro e fantasia, per la pizza con gli amici, gustosa e ricca di ingredienti di qualità. Ristorante Pizzeria Kenzia, al Trappito, con suggestiva terrazza sul mare, per i buon gustai che pretendono il meglio. Nel centro storico di Cefalù, in via Bordonaro 96. Per prenotazioni e info, 0921 42 38 01. La forza di un team vincente. Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno, adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili. Da Mineo Gioielli, le più preziose idee regalo proposte con professionalità ed eleganza, perché un gioiello è testimone di momenti memorabili. Mineo Gioielli, la preziosa artigianalità e l'eleganza di collezioni esclusive che fondono il freddo dei gioielli con il calore di sentimenti irripetibili. Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3, telefono 091 962 313 a Bagheria. Una tradizione che si trasmette nel tempo. Mangiare sano ti aiuta ad affrontare meglio lo stress della vita quotidiana. Rivolgiti con fiducia alla macelleria Arcangelo Cipriano. Sulla tua tavola carni fresche, genuine, certificate provenienti da allevamenti locali. Vitello, agnello, carni bianche, capretti e polli. E se non hai tempo, macelleria Arcangelo Cipriano ti viene in aiuto proponendoti tanti preparati di vario genere. Macelleria Arcangelo Cipriano, via Umberto I 52 a Cefalù. Telefono 0921 42 10 99. Per la tua pubblicità, CRM 0921 42 3456. CRM. Messaggio elettorale a pagamento commissionato dal candidato Giuseppe Di Maggio. La Sicilia è in un baratro. Soltanto uomini che l'amano possono salvarla. Uomini che sanno lottare, che hanno idee chiare e soprattutto un grande cuore. Per tutto questo, per il rinnovo del Parlamento regionale, il 28 ottobre vota Peppuccio Di Maggio, lista PDL, Nello Musumeci presidente. Peppuccio Di Maggio, il volto nuovo per una nuova politica. E riprendiamo qua e là tra una novità e l'altra. Stava parlando Francesco Randone e gli ridò la parola per completare il suo pensiero. Allora, io stavo dicendo questo, che siccome con questa politica fiscale forse si è creato un po' di terrorismo psicologico negli italiani, dico, io domando, per amore di chiarezza e precisione, perché in Italia non si fa proprio a livello turistico quello che hanno fatto alcuni anni fa in momenti di crisi in Germania, è dare la possibilità di detrarre dalla dichiarazione del reddito per una percentuale i costi della vacanza in Italia, in modo tale che si fa una lotta all'evasione, nel senso che bene tutto fatturato con ricevute fiscali, si incentiva il rimanere il turismo nazionale a rimanere in Italia nelle destinazioni italiane, e avere un vantaggio anche per chi va in vacanza, per cercare anche un pochettino di abbattere quelli che sono per esempio i costi più bassi che ci sono in alcune destinazioni concorrenti, e cercare di sostenere questo turismo che rappresentava fino a qualche anno fa l'11% del PIL nazionale e adesso siamo scesi purtroppo al 6,5%. Quasi dimezzato. Sì, si è quasi dimezzato, e se poi magari più avanti possiamo dare dei paragoni con le altre destinazioni concorrenti all'Italia, dico, do qualche numero per capire un attimino in che posizione l'Italia e comunque anche la Sicilia può essere nei confronti di destinazioni concorrenti. Più che altro focalizzare l'attenzione anche su Cefalù. Ora, riportare su Cefalù il discorso lo vedremo, ma c'era Angelo Macaluso che credo ha qualche problema di raggiungere. Oggi avete una grande manifestazione, Eco Cefalù. Sì, ecco, di che si tratta? È un evento che abbiamo fortemente voluto, sia io come Francisile, come agenzia, che Mauro Calio, di cui tu avevi accennato, della, che tra l'altro l'architetto ha, ha uno studio che è la MoMA Architectures and Design. Abbiamo parlato per tanto tempo con Mauro di ecosostenibilità, turismo sostenibile, quindi turismo verde, mezzi elettrici. Noi ribattiamo sempre sul concetto che a noi piacerebbe, ecco, ritornando a fare un paragone tra noi e gli altri che hanno meno di noi ma che guadagnano più di noi, questo centro storico finalmente chiuso alle macchine. Ma io ribadisco sempre, centro storico chiuso, ma dando anche la possibilità a chi vive nel centro storico di non avere dei disagi, ma piuttosto che anche dei vantaggi, come si fa dovunque. Certo. Quindi con questo presupposto abbiamo detto, cerchiamo di dare un segnale, facciamo un evento. Abbiamo fatto un evento che abbiamo chiamato Eco Cefalù, fatto tra virgolette in economia, con tanti sacrifici miei e di Mauro in tutti i sensi, perché da soli è tre giorni che corriamo come i pazzi, con l'aiuto di alcuni albergatori, alcuni commercianti che ci hanno sponsorizzato. Io qua ho il presidente del consorzio, mi trovo sempre vicino in qualsiasi occasione, poi va bene, sponsorizzata e quindi patrocinata a titolo gratuito dal comune, dall'ente Parco Le Madonie ci ha dato una mano effettivamente, poi magari ti dirò anche qualche altro sponsor, giusto per perché è giusto che gli si dia merito. Perché cosa è stata fatta, dico, per Cefalù, per far capire che la gente ha voglia di turismo sostenibile, di rispetto dell'ambiente, e perché io sono sempre convinta che i turisti cercano questo, perché poi il turismo, certo, responsabile, il turismo sostenibile, a cosa serve? Serve a mantenere l'ambiente, che serve a noi, ma il turista oggi, quando deve scegliere una meta, e se dovesse scegliere Cefalù come meta, si aspetta di trovare un ambiente pulito, naturale, ecologico, mangiare sano a chilometro zero, perché se deve cercare l'extra lusso, che noi non possiamo permetterci, l'ho detto anche ieri, noi non siamo Dubai, il cliente che cerca il 5 stelle super lusso con quello che non è natura, che non è realtà, genuinità, sicilianità, se ne va altrove, non viene qua. Dove trova anche i campi, esatto, di golf, bravissimo. Quindi dobbiamo puntare su quello che abbiamo, noi abbiamo tantissimo, basta solo valorizzarle. L'Eco Cefalù è iniziata ieri, oggi è domenica, venerdì mattina è iniziato con un programma che abbiamo chiamato Mobility Day, il sabato l'abbiamo chiamato The Green Day e domenica BC Day. La Mobility Day chiaramente è tutto quello che è mobilità elettrica, quindi abbiamo messo su alla Piazza Matteotti un villaggio dell'ecosostenibilità con mezzi elettrici, quindi bici elettriche, auto elettriche, minibus elettrici, per dare la possibilità alla gente di provarli, di entrare in centro storico. Certo, ti devo dire, una critica mossa, mi aspettavo in questo weekend dell'ecosostenibilità un centro storico chiuso alle macchine, perché io volevo ricordare che qualcuno mi ha detto, sì, così disturbiamo i residenti che hanno i pass. Io ho solo mosso una critica ieri in conferenza, c'è stato Milano e Roma che hanno fatto il BC Day, il weekend dell'ecosostenibilità, Milano e Roma, quindi stiamo parlando grossissimi centri che hanno anche problemi di viabilità più dei nostri, hanno blindato tutto il centro storico, non c'è stata una sola auto. Io purtroppo quando ho inaugurato il villaggio della sostenibilità venerdì c'è stato un via vai di macchine e il signore che ci ha portato le macchine elettriche ha detto forse questo weekend ha poco di sostenibile, per cui ci vuole un aiuto veramente da parte di tutti. E quindi poi, questa cercare di sensibilizzare la gente assolutamente a questo problema, ci abbiamo provato, no? Anche questo sia l'obiettivo di è questo. Tra l'altro sabato, ieri, abbiamo invece puntato l'attenzione sulla gastronomia, abbiamo fatto questa conferenza sul turismo sostenibile anche gastronomico, è venuto il presidente di Slow Food Caccamo che ci ha spiegato un po' quello che sarebbe importante anche a livello economico, proprio perché si è parlato anche di agricoltura, incentivare di nuovo l'agricoltura, quindi dice non importiamo i prodotti che potrebbe essere al servizio del turismo, non diamo negli alberghi per esempio la provola svizzera, abbiamo la provola delle Madonie, è chiaro che ci vuole anche lì uno sforzo. Abbiamo fatto una lezione di cucina spettacolare ieri sera, mi sono divertita tantissimo all'aperto, con l'aiuto del Bar Duomo, con una dimostrazione, uno schermo gigante, la gente assisteva a questa lezione di cucina biologica, dei prodotti nostri, anche quella è andata molto bene. E oggi Bici Day stamattina, la giornata ci ha anche aiutato molto, abbiamo avuto tantissimi partecipanti, sono circa una sessantina di gente in bici che si è fatta vedere in piazza Matteotti, tanti bambini, perché finalmente oggi il centro storico era chiuso, quindi hanno fatto un giro, adesso 12:30, ecco perché ho premura, abbiamo appuntamento a piazza Matteotti, dove è stato allestito una sorta di catering con i nostri prodotti, grazie anche all'aiuto del consorzio delle calette che ci ha messo a disposizione questo piccolo catering, infatti grazie del Prangelo che ci veramente è sempre molto molto disponibile, e a parte i prodotti forniti dalle calette, questo piccolo buffet insomma allestito, ci sarà un premio, quindi una medaglia con la bici dove c'è scritto Ecocefalù 2012. Oggi pomeriggio, sempre a proposito di bici, centro storico permettendo, facciamo una sfilata di moda, ci saranno una ventina di ragazze vestite. C'è stata una in piazza Garibaldi a cura, sì, credo, bellissima, quella di piazza Garibaldi dell'istituto d'arte, con dei venerdì sera, con dei vestiti fatti con il riciclo, quindi bottiglie di plastica, bellissima. Quella di oggi invece è proprio un negozio abbigliamento 0921 di Simonetta e Robertina, che tutti conosciamo. Stanno vestendo 20 ragazze in bici, abbiamo chiamato la bici fashion per dire, non ti leviamo anche la scusa che in bici non si va perché non si è eleganti, si può essere anche eleganti. Faranno un giro al centro storico insieme a Master, abbiamo creato dei momenti fotografici anche per fotografare gli angoli più suggestivi di Cefalù con queste ragazze, e poi magari faremo un calendario su questo, e allestiremo stasera un set fotografico proprio a tutti gli effetti a Piazza Duomo, e poi la finale alle 21:30. Abbiamo il Retro Cult, che è un gruppo musicale con musica degli anni 60-70, prima che intervenisse questo progresso che ci sta distruggendo, e faremo la premiazione della vetrina verde, perché abbiamo incentivato i commercianti ad allestire la loro vetrina in verde. Meglio le vetrine, sì. Io prima di lasciarvi, perché devo dire una cosa sinceramente, questa è una puntata alla quale mi piaceva veramente assistere. Faccio turismo, qua ci sono due dei principali esponenti del turismo cefaludese, per me era un piacere rimanere fino a l'una e parlare di tante cose sul turismo cefalù. Beh, comprendiamo comunque, ma che devo andare via, mi preme solo quindi c'è sì, l'attesa, e mi spiace, quindi, ma devo solo darti alcune indicazioni giusto per gli sponsor che ci hanno aiutato, collaborato fattivamente anche dandosi proprio da fare: Costa Verde, Le Calette, il consorzio Cefalù Holidays, Riva del Sole, il Sea Palace, il Porticciolo, il Bar Portaterra, il Bar Caffè Ruggero, la Corte dei Golosi, il Tourist, e poi 0921, Master, Drago Fioraio, il Centro Commerciale Naturale, e abbiamo poi tre rappresentanti di Mobility, quindi Best Bike di Palermo, l'Edicola La Villa, che ha messo a disposizione tutte le bici elettriche, e la Seca, che ha messo a disposizione i mezzi elettrici. Ricordiamoci sempre il patrocinio Comune di Cefalù e l'Ente Parco. In bocca al lupo per il proseguo della manifestazione, e vorrei ritornare ad Angelo Micichè. Anzi, c'è un'altra cosa, credo che ci ha portato. Certo, questo è perché prima. Infatti spero di non aver dimenticato nessuno, perché sono di corsa, ma sicuramente un grazie va a CRM, intanto perché lui mi ha fatto animazione sabato, ma poi perché tra virgolette siamo anche collaboratori, perché una volta a settimana qui collaboro in radio per parlare di turismo, quindi CRM lo ringrazio due volte, quindi grazie veramente anche a CRM. Angelo, devo dire, mi supporta sempre, per cui e supporta tutte le manifestazioni che vanno sempre presente e sempre bravissimo, quindi lo fa sempre volentieri. Ricordo, scusami un attimo, che per la premiazione stasera, oltre alla nostra, la vetrina verde, ci sarà l'occasione per premiare, che già sono i vincitori, quindi consegneranno solo il premio ai vincitori della vetrina Cefalù Fiorita, il concorso, certo, di Cefalù, sì, che c'è stato quest'anno. Sì, preciso che questa premiazione sarà fatta oggi domenica e non lunedì, perché lunedì va in replica questa trasmissione alle 13:15. 21 a Piazza Duomo. Ecco, alle 21, ecco, diamo appuntamento alle 21 in Piazza Duomo per questa premiazione. E ritorniamo ad Angelo Micichè. Io intanto ombre di Cefalù. Io intanto vi saluto a ci tutti, sono? Grazie mille, ecco, grazie mille ancora, a tutti. Grazie ancora Angela Macaluso. Volevo chiederti, tra le luci e le ombre che ci sono a Cefalù, ce n'è una recentissima, oggi, domani, sciopero della nettezza urbana, i contenitori sono già ricolmi, che Dio ce la mandi buona. E come intravedi alcune cose che vanno, cose che non vanno a Cefalù? Cosa cambieresti, cosa suggeriresti, ecco, a livello locale? Tu curi un po' anche il discorso non soltanto di Cefalù ma anche di tutto il distretto turistico, quindi hai una percezione di tante cose, se vanno bene o non vanno bene, ecco. Intanto puoi darci una Beh sì, non è facile parlare di ricette, dobbiamo stare attenti perché il turismo è una di quelle cose come in cui ci sentiamo tutti pronti, tutti bravi, tutti disposti a dare risposte. È un po' come i commissari tecnici, ce ne sono uno per ogni tifoso di calcio. Col turismo si fa un po' lo stesso. Per la verità bisogna stare attenti e quindi per quanto dico ci sentiamo tecnici, ci sentiamo capaci, abbiamo visioni ormai abbastanza generali, perché i problemi di Cefalù sono i problemi della Sicilia, del meridione d'Italia, anche molti sono problemi che abbiamo in comune con tutta la nostra nazione. E allora le luci ce le abbiamo tutte davanti agli occhi, sono talmente abbaglianti che stordiscono anche noi, figuriamoci i turisti che arrivano qui per la prima volta. Quindi le nostre bellezze naturali, i monumenti, l'intervento dell'uomo su una terra che era già bella, con monumenti, e quindi questo inserimento della mano dell'uomo in una natura selvaggia, in una natura prorompente, in una natura che veramente ci stordisce, e queste sono le nostre luci. Tolto questo, purtroppo devo dire che noi abbiamo ben poco, abbiamo realmente ben poco. Io direi che forse paradossalmente la nostra difficoltà deriva dalla nostra ricchezza, e cerco di spiegarlo. Noi veramente, dico, siamo dotati dalla natura e poi dico da chi ci ha preceduto nella storia di un patrimonio enorme. Questo patrimonio, proprio per la sua, per il suo valore, per il suo peso, attrae gente di una certa sensibilità. Quindi non è il turista che è disposto ad andare dappertutto, non è il turista che cerca il divertimento fino a se stesso, che cerca la discoteca, che cerca il movimento. È un turista, per le caratteristiche nostre, e che è disposto a farsi questo viaggio, a prendere tutte le difficoltà che sa di, e i rischi anche, no? Che sa di trovare in Sicilia. È un turista che è molto attratto da queste cose. Di contro, questo turista, per questa sua sensibilità, si aspetterebbe che questo che noi abbiamo, servizi adeguati, che questo che noi abbiamo, intanto sia trattato nella maniera dovuta. Perché se io vado in una bellissima città e mi trovo con l'immondizia sulla strada, dico: ma questa gente ha idea di quello che ha in mano, e perché mi fa trovare questo? Certo. E quindi sarei infastidito, a un certo punto rifiuto quelle bellezze, perché dico: ma le trattano tanto male, ma che civiltà sono andato a incontrare? Questo dico per dire una cosa semplicissima. Ma poi dico: questo turista è anche un turista con più disponibilità a spendere e più disponibilità in termini di tempo per passare una vacanza qui da noi. E noi a questo turista dobbiamo fare trovare quello che lui si aspetta. Non siamo stati capaci di fare questo. Purtroppo in tutti questi anni, per quanto dico si sia tentato di investire, si siano stimolati gli investimenti privati attraverso contributi, e questo dico ha dato dei risultati, nel senso che sono cresciuti i nostri prospetti, sono migliorati, si sono rinnovate le strutture, nello stesso tempo non si è rinnovata l'offerta turistica vera e propria. Purtroppo devo dire che tutto questo, diciamo, le imprese, quindi i tecnici, non riescono a incidere su questo. Cioè a dire, la maggior parte di questo patrimonio, si calcola intorno al 98% di tutto questo, è in mano al pubblico. E quindi dico, se non interviene il pubblico sui servizi, sulle infrastrutture, sugli tutto ascensori quello, per la rocca, che potrebbe essere tutto quello che serve per salvaguardare rendere fruibile e valorizzare quello che abbiamo. Sono queste le tre cose da fare. Noi dobbiamo conservare quello che abbiamo, renderlo utilizzabile senza che utilizzandolo lo danneggiamo, e valorizzarlo, cioè dire aggiungere quello che il turista si aspetta, aggiungerlo in termini di ricettività, di una ristorazione di un certo livello, i negozi adeguati, cioè tutto quello che noi possiamo aggiungere a questo, che renda poi il prodotto complessivamente omogeneo voi, e complessivamente interessante. Voi faticate a vendere questo prodotto Cefalù, oppure in linea di massima, dato le bellezze monumentali e paesaggistiche, c'è gente che passa magari davanti se ci a fosse questa mancanza di servizi? Ma è chiaro, quelli che arrivano, appunto, se confrontiamo i numeri con quello che succede, il discorso che abbiamo fatto poco fa, se confrontiamo quello che quanto turismo attrae Cefalù e la Sicilia, devo dire, perché confrontare Cefalù diventa difficile, ma la Sicilia, perché poi i nostri problemi ce li abbiamo in comune in tutta la Sicilia, con quello che succede in queste altre piccole isole, è evidente che la nostra attrattività è molto inferiore, perché altrimenti i nostri numeri dovrebbero essere 10 o 100 volte più di quelli di queste piccole isolette, e quindi questa fatica c'è, è evidente. È chiaro che chi arriva, come dicevo poco fa, passa sopra a questi problemi, è talmente attratto da queste bellezze, alla nostra cultura, alla nostra storia, che in effetti, se poi deve fare una strada di 2 ore per raggiungere la sua destinazione, gli importa poco, o perlomeno ci passa sopra. Certo. E Francesco Randone, luci e ombre di Cefalù. Già Angelo Micichè ne ha parlato, ma secondo il tuo modo di vedere il turismo a Cefalù, ecco, quali luci vede e quali ombre si addensano su questo turismo? Ma io l'altro giorno riflettevo perché per le nostre strutture alberghiere noi negli ultimi anni abbiamo visto che il turista appunto non viene da solo, gli operatori, tour operator operano in realtà dove c'è molta più facilità di vendita e di collegamenti, quindi mi riferisco alle varie isole che nostre concorrenti. E allora dobbiamo fare uno sforzo maggiore e diventare, occuparci o prendere dei consulenti che ci studiano un pochettino il marketing, la realtà delle nostre strutture singole, quelle che sono la tipologia di clientela su cui ci dobbiamo puntare, quali sono i servizi che questa tipologia, questo target di clientela vuole per accontentare il cliente che viene nella nostra singola struttura. La stessa cosa pensavo che la destinazione turistica, in questo caso Cefalù, dovrebbe fare. E quante destinazioni turistiche in Sicilia hanno fatto questo lavoro e hanno pensato per dare al target, alla tipologia di clientela a cui sono su cui sono proiettati, i servizi che i clienti venendo in quella destinazione pretendono, nel senso, e pensano di trovare. Allora, riflettendo sempre su quelle che sono delle destinazioni in Sicilia nostre competitor e vedere quelle che mantengono o comunque sono consolidate su un mercato, vedi Taormina, e una destinazione come San Vito che è cresciuta e che è riuscita a dare per quella che è la destinazione servizi e manifestazioni che riscontrano il gusto e la soddisfazione del cliente. Allora, dico, con il couscous loro sono partiti col couscous, non hanno solo quello, perché hanno manifestazione ogni 15 giorni, vengono seguiti da una società, c'è stata grande apertura da parte dell'amministrazione negli ultimi 5, 6, 7 anni. E questo è importante. I servizi che offrono. E tutto questo, la comunicazione che viene data sia a livello regionale sia a livello internazionale. Ora dico, noi Cefalù abbiamo una destinazione che fa invidia, penso, in tutto il mondo. Dovremmo cercare di essere, come dicevamo prima, più modesti e impegnarsi tutti, pubblico e privato, per cercare di ottimizzare laddove è possibile, a vantaggio di tutta la collettività, quelli che possono essere i servizi e soprattutto anche le infrastrutture che Cefalù dovrebbe offrire. Io paragone che volevo fare per esempio è questo, dico, ci sono stati dei comuni come Ragusa per esempio che negli ultimi 15 anni hanno fatto delle grosse operazioni di marketing e anche delle operazioni mediatiche ma anche strutturali. Noi sappiamo benissimo che Montalbano ha pubblicizzato la zona di Ragusa in, in tutta Europa. Il comune di Ragusa ha acquistato degli immobili, tra cui il castello di Donna Fugata, di cui tanto oggi si parla, è un castello ristrutturato con fondi europei, messo a reddito, e il comune ha un cespite, io mi sono informato, 70.000 visitatori l'anno che arrivano, pagano il parcheggio, pagano l'ingresso, girano film nel castello di Donna Fugata, non solo Montalbano ma anche altri film, organizzano concerti, creano diversivi, insomma. Creano diversivi e creano anche un reddito per le casse comunali. Ecco, dico, quello che dovremmo pensare anche noi, avremmo dovuto già pensare da tempo, cioè Falù, di fare una cosa del genere. Quindi Angelo Miccichè, ecco, per chiudere questa nostra piacevole chiacchierata, tu in parte hai già risposto in una certa maniera, cosa possiamo chiedere alla politica regionale e comunale? E se ritieni che un circuito turistico madonita possa essere anche utile per il turismo, per i turisti che arrivano a Cefalù? Sicuramente, dico, partiamo dalla seconda, e poi torniamo ai nostri programmi regionali. Sicuramente, dico, non il turismo madonita ma il turismo di tutto il nostro territorio. Noi con il distretto abbiamo messo insieme un territorio proprio per crescere nella dimensione, nella visibilità a livello mondiale, perché ci rendiamo conto che Cefalù, nonostante abbia un nome già conosciuto, dico, in tutto il mondo, ha bisogno, proprio per rendere la vacanza nel nostro territorio più gradevole, più attraente, di tutto quello che si fa intorno, dai prodotti, come poco fa dico, accennava, già da qualche anno noi tentiamo di eliminare i prodotti di importazione per utilizzare prodotti della nostra genuini, terra. Genuini, della nostra terra, che sono veramente questo fantastico. Dico, è un segnale importantissimo, proprio nell'ottica di quella qualità che il turista informato, il turista impegnato cerca quando cerca una destinazione come la nostra. E quindi sicuramente nell'ottica di, come dicevo prima, salvaguardare, rendere fruibile e arricchire, dico, la nostra offerta, il territorio, quindi il Parco delle Madonie con tutto quello che vuol dire una natura incontaminata, selva bellissima, no? Il parco di Mera come realtà archeologica è importantissima, con il museo soprastante, Europa, interessante, certo. Pure, certo. E questo, dico, serve ad arricchire all'offerta di una destinazione, questo è il senso. Andiamo alla seconda, alla seconda parte. La seconda parte in modo, dico, succinto, perché sì, siamo agli sgoccioli. Mi è venuta un'idea nel senso che per non essere criticato, avere dei numeri che ci supportano è fondamentale. E allora, dai numeri che abbiamo sentito in questa in questo scorcio di campagna elettorale, quello che è venuto fuori da altre realtà e altre regioni d'Italia nel confronto dei nostri costi, che la Regione Sicilia, l'Assemblea Regionale Siciliana, costerebbe quasi 60 milioni di euro l'anno. E allora, cosa si può chiedere, non per sistemare i nostri bilanci, perché non si sistemano così, ma intanto come indicazione di un'inversione di rotta? Questi 60 milioni di l'anno di costo dell'Assemblea Regionale moltiplicato 5 sono circa 300, grosso modo questo. Se i nostri deputati, che deputati e anche candidati alla presidenza, vogliono veramente dimostrare di voler invertire la rotta e tagliare finalmente i costi di questa di questo peso pubblico che la parte che produce la ricchezza non può più sostenere. Perché quando si è parlato, mi pare che Ivan Lobello lo avesse accennato, di fallimento della regione siciliana, sta proprio in questo, nel senso che chi produce ricchezza non può più sostenere il peso di questo tipo di servizi. E questo è il senso del fallimento. Tutto questo ha fatto inalberare chiaramente, dico, i nostri amministratori, perché parlare di fallimento nei rapporti economici chiaramente ti mette in cattiva luce e rende più difficile qualunque tipo di rapporto. Però nascondersi la realtà, anche quello non è che metta in buona luce. Certo, e allora, se vogliamo guardare con concretezza a questo, noi vediamo che il fallimento sta nei numeri. Oltre al fallimento delle nostre politiche, c'è una reale difficoltà di rendere possibile che la nostra economia, cioè chi produce ricchezza nella nostra terra, non sia più in grado di sostenere dei servizi che fino ad oggi in qualche modo ci siamo potuti permettere, ma che da oggi in poi, se si chiudono i rubinetti nazionali e quelli europei, non ci potremo più permettere. Si va verso il dissesto, e allora si va verso, cioè necessariamente si va verso il dissesto. Certo. E allora il segno quale potrebbe essere di questi, per questi nostri amministratori che vogliono dimostrare veramente di fare questo? Io credo che il dimezzamento, ritengo che sia possibile, del numero dei deputati regionali. Sì, già hanno si parla di 90-70. Ma io ritengo che si possa arrivare al dimezzamento, o perlomeno al dimezzamento del costo, certo, di questa macchina, togliendo alcuni privilegi. Benissimo. Se questi nostri candidati ci promettessero, si impegnassero a questo, cioè dire a portare di quel costo dell'assemblea regionale al 50%, ci farebbero risparmiare intanto nei 5 anni almeno, dico, al netto di una spesa per le elezioni che credo sia intorno ai 30 milioni di euro dovrebbe essere per la Sicilia, al netto di questo costo per tornare a votare subito dopo aver fatto, dico, questa legge, ci farebbero risparmiare nell'arco di 5 anni 100 milioni di euro. Certo. E allora perché sprecare questa somma? E quale segnale sarebbe? È una legittima domanda. Quale segnale sarebbe per la nostra, per il nostro territorio, certo, per la nostra popolazione, riuscire ad avere veramente la conferma di quello che ci promettono in questo semplice impegno? È chiaro che ci vuole la forza dei siciliani per chiederlo, perché tutto, certo, dipende soltanto da questo. Se noi abbiamo questa forza di chiedere a questi signori, benissimo, vuoi il mio voto, fammi questa semplice promessa, questo semplice impegno, ti credo, perché dico, non ho motivo di non crederti, ma impegnati a fare questo, approva, dico, questo taglio delle spese della nostra assemblea, e dopo un mese torniamo, certo, a votare. Il costo è coperto da quello che risparmiamo, certo, abbondantemente. Francesco Randone, ecco, cosa chiedi tu? Cosa possiamo chiedere alla politica, sia regionale, sia ma io intanto degli enti locali in genere? Allora, io intanto parto velocemente. Io intanto parto dai numeri, da uno studio che abbiamo fatto proprio una quindicina di giorni fa. È un programma dato ad alcuni candidati alla presidenza della regione. Abbiamo visto che il settore turistico a livello siciliano sviluppa circa 3 miliardi di euro di giro d'affari e dà posti di lavoro a circa, adesso se non ricordo bene, erano 8-9 mila persone, una cifra non indifferente. Allora, si sono persi in questi ultimi 2-3 anni per esempio circa 1500 posti di lavoro nel settore turistico, e nessuno ne parla. C'è lo sciopero della GESIP per 180 dipendenti, mi sembra, dico, se ne parla in continuazione, ma i 1200 posti persi nel settore turistico nessuno se ne occupa. Allora, dico, in Sicilia noi dovremmo innanzitutto capire che il turismo offre un contributo decisivo alla bilancia regionale e soprattutto anche ai posti di lavoro. Allora, ci sono delle problematiche che si possono risolvere a livello regionale, qualcuno purtroppo sono di competenza nazionale e su quelle è la regione che dovrebbe cercare anche di stimolare e spingere insieme alle altre destinazioni turistiche siciliane. Allora, noi cosa chiediamo? Allora, noi chiediamo sicuramente una riduzione di quello che è la burocrazia che abbiamo, perché ritengo che ormai, parlando con i vari imprenditori, non facciamo più il nostro lavoro, ma facciamo solamente tutto il giorno inseguire problematiche burocratiche e non dedicare allo sviluppo delle nostre imprese. Scoraggia qualsiasi iniziativa questa. Snellire più possibile la possibilità di assumere personale anche stagionale. Dico l'elenco sarebbe anche molto lungo, perché per esempio avevamo detto sbloccare le tariffe aeroportuali vincolandone la destinazione allo sviluppo degli aeroporti, per esempio, cosa che in Sicilia è importantissimo, perché i collegamenti e la velocità dei collegamenti è forse la prima cosa per consentire ai flussi turistici di arrivare in tempi veloci. Ecco, dico, poi i collegamenti stradali e ferroviari dovrebbero essere molto veloci. Dico, abbiamo i famosi paesi concorrenti, lo sappiamo, come la Spagna, dove questo l'hanno già realizzato da anni e velocizzano i tempi di percorrenza e di arrivo nelle varie destinazioni. E, dico, l'elenco sarebbe lungo. Dico, noi abbiamo un altro problema, per esempio, che a livello nazionale, ma quindi riguarda anche la Sicilia, per venire in Italia i cittadini russi, indiani, cinesi e sudafricani hanno bisogno di un visto per motivi turistici. Questo dovrebbe essere eliminato in Italia, perché altrimenti sono turisti che perdiamo e che vanno in altre destinazioni. In pratica noi dobbiamo cercare di metterci in linea con quelli che sono i servizi, ma la possibilità da un punto di vista anche burocratico di consentire ai turisti di venire in Sicilia con la stessa facilità con cui vanno nelle altre destinazioni. Dico, perché la burocrazia purtroppo non solo crea problemi a noi, ma crea spesso problemi anche agli operatori, al turista, per venire nelle nostre destinazioni. Ringrazio Francesco Randone, Angelo Miccichè, Angela Macaluso, Flora Rizzo per la loro partecipazione a questa trasmissione, per l'apporto di idee che hanno dato, soprattutto Angelo, Francesco e Angela, per quanto riguarda il turismo. Sono delle aperture, dei suggerimenti che potrebbero essere utili per il futuro della città di Cefalù, vengono presi in considerazione anche dalla classe politica, che dovrebbe portare avanti questi problemi. Vi ringrazio per la vostra partecipazione. Se non avete altro da aggiungere, facciamo una pausa, ce la chiede il regista Angelo Arduino, e dopo cercheremo di collegarci con il presidente del Barcellona Bonina e con il capo ufficio stampa Benedetto Orti Tullio. CRM. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Marco Costumati. Di chi mi posso fidare? Io di lui mi fido. Toni Costumati, presidente delle ACLI di Palermo, è candidato nella lista UDC Italia. 28 ottobre, elezioni regionali. Di lui ti puoi fidare. Toni Costumati, lista UDC Italia e Crocetta presidente. Noi di loro ci fidiamo. Messaggio elettorale gratuito, commissionato da Italia dei Valori, lista di Pietro. Il 28 ottobre si vota, finalmente. Italia dei Valori è presente in questa competizione elettorale in chiara alternativa, forza politica Italia dei Valori, che in questi 11 anni non ha mai accettato di andare né alla corte di Cuffaro né alla corte di Lombardo, come purtroppo hanno fatto gli altri candidati. L'Italia dei Valori accanto al sostegno di Giovanna Marano. Gli altri candidati sembrano come le scimmiette, quelle che non vedono, non sentono, non parlano. Quelle che non vedono i drammi di questa Sicilia, che potrebbe essere una terra straordinariamente ricca e sviluppata, quelli che non sentono il grido di dolore dei giovani che si vedono scippati del diritto al futuro e dei tanti occupati che vedono a rischio il posto di lavoro e dei tanti disoccupati che non vedono speranza di poter, lavorando, portare quanto è necessario per vivere alla propria famiglia, che non parlano perché hanno venduto la loro dignità per un piatto di lenticchie alla corte di Cuffaro o alla corte di Lombardo. Chi pensa che le cose debbano e possono continuare così, non voti per noi. Chi pensi che invece è necessario cambiare, che si può cambiare, voti per Italia dei Valori, voti per Giovanna Marano. È in gioco il futuro dei nostri giovani, è in gioco il nostro diritto di cittadini, è in gioco il futuro della Sicilia. Messaggio elettorale gratuito del Partito Democratico. Domenica 28 ottobre, vota Partito Democratico per cambiare la Sicilia con Rosario Crocetta presidente. Tu non stare a guardare, il futuro è nelle tue mani. Una Sicilia diversa è possibile. Con il tuo voto fai la differenza. Domenica 28 ottobre, vota Partito Democratico. Si vota solo domenica. Messaggio elettorale gratuito commissionato da La rivoluzione è già iniziata. La prima legge che faremo sarà quella di applicare la norma dell'ONU che prevede l'acqua, diritto fondamentale dell'umanità, e applicare quel referendum che è stato emanato da questo governo. I rifiuti tornano di competenza ai sindaci, perché siamo stanchi degli ATO che hanno duplicato le tariffe e i disservizi. Con Crocetta si viene con lealtà e si viene per sostenere gli interessi dei cittadini e solo dei cittadini, perché i cittadini devono sapere come se la devono prendere quando le cose vanno male, così come dobbiamo cominciare a realizzare le grandi riforme, le grandi svolte. E questo è il mio programma, Presidente: eliminare la corruzione, cacciare via la mafia e creare lavoro e sviluppo, eliminare la mangiunchia. E questo è l'obiettivo che noi ci diamo. Perché il nostro progetto è un progetto plurale, è il vostro progetto, è la rivoluzione della dignità. E io sono convinto che il 28 di ottobre voi sarete leali con la Sicilia. Perché se non ora quando? Se non ora quando? Il 28 di ottobre voi non tradirete la Sicilia. All'Assemblea regionale siciliana vota Rosario Crocetta presidente, barrando il nome del candidato Crocetta nella scheda elettorale. Si vota solo domenica 28 ottobre 2012 dalle 9 alle 22. Con Rosario Crocetta la rivoluzione è già iniziata. Messaggio elettorale gratuito commissionato da Rosario Crocetta presidente. La prima legge che faremo sarà quella di applicare la norma dell'ONU che prevede l'acqua, diritto fondamentale dell'umanità, e applicare quel referendum che è stato emanato da questo governo. I rifiuti tornano di competenza ai sindaci, perché siamo stanchi degli ATO che hanno duplicato le tariffe e i disservizi. Con Crocetta si viene con lealtà e si viene per sostenere gli interessi dei cittadini e solo dei cittadini, perché i cittadini devono sapere come se la devono prendere quando le cose vanno male, così come dobbiamo cominciare a realizzare le grandi riforme, le grandi svolte. E questo è il mio programma, Presidente: eliminare la corruzione, cacciare via la mafia e creare lavoro e sviluppo, eliminare la mangiunchia. E questo è l'obiettivo che noi ci diamo. Perché il nostro progetto è un progetto plurale, è il vostro progetto, è la rivoluzione della dignità. E io sono convinto che il 28 di ottobre voi sarete leali con la Sicilia, perché se non ora quando? Se non ora quando? Il 28 di ottobre voi non tradirete la Sicilia. All'Assemblea regionale siciliana vota Rosario Crocetta presidente, barrando il nome del candidato Crocetta nella scheda elettorale. Si vota solo domenica 28 ottobre 2012 dalle 9 alle 22. E riprendiamo qua e là tra una novità e l'altra. Abbiamo cercato di metterci in contatto con il presidente Bonina, ma non ci siamo riusciti. E invece abbiamo al telefono il capo ufficio stampa del Barcellona, della Sigma Barcellona, Benedetto Orti Tullio. Sappiamo che oggi al Palatricoli c'è l'incontro di basket di A2, di Serie A2, tra il Barcellona ed il Forlì. Pronto, Benedetto? Sì, buongiorno a tutti. Ciao, senti, oggi dicevamo c'è questo incontro di basket al Palatricoli. Il campionato sembra un po' livellato nelle zone alte. Abbiamo visto il Napoli ed era in grado di giocare bene, ha fatto una buona partita, ha perso poi al supplementare, ma comunque ha fatto una buona partita. C'è quindi un livellamento in alto delle squadre? Ma il campionato di Lega 2 è... Noi siamo al terzo anno consecutivo di Lega 2, fino ad oggi è sempre stato così, è un campionato molto, molto equilibrato, a parte due o tre formazioni che poi vanno a giocarsi la salvezza proprio sul filo di lana. È un campionato che è sempre avvincente, regala sempre tante emozioni, e poi interessantissimo sarà vedere l'appendice finale, poi dei play-off, perché i play-off sono anche ricchi di colpi di scena. Le squadre quest'anno... Vedo squadre molto ben attrezzate, molto, molto ben equipaggiate, che possono fino alla fine recitare un ruolo importante in questo torneo, sicuramente. Certo, il Barcellona è molto prolifico in avanti, ma anche in difesa credo che ci sia una certa fragilità difensiva. Come l'hai visto? Lo staff tecnico sta lavorando molto con la squadra anche sotto l'aspetto difensivo, perché spesso la difesa vince le partite ancor più dell'attacco, e quindi si è lavorato tanto. Del resto oggi sappiamo di affrontare comunque una squadra molto arrabbiata dopo la batosta di domenica scorsa contro Pistoia, una sconfitta piuttosto pesante per i nostri prossimi avversari. E certo, come lo vedi appunto l'incontro con Forlì? Secondo te come si potrà articolare? Questo incontro con Forlì secondo me si giocherà molto sulla grinta, sulla loro voglia di rivalsa, alla quale noi dobbiamo opporre le nostre motivazioni, dobbiamo opporre quello che sappiamo fare, tutte le nostre potenzialità, soprattutto quindi, come dicevi prima tu, difensive, e questo ci aiuterà sicuramente. Poi quindi l'agonismo, l'impegno sarà un punto di forza di questo incontro, sì. Potrebbero avere... e poi anche il Palatricoli. Credo che il Palatricoli farà la differenza, così come l'ha fatta domenica scorsa contro Napoli. La nostra gente, la gente di Barcellona e la gente di Cefalù, che ci ha onorato. Sì, io ho visto moltissima gente di Cefalù che ha preso in simpatia la squadra e applaudiva ogni azione del Barcellona. Sì. Infatti oggi proprio sull'autorgan che troverete al Palatricoli di Cefalù vedrete un ringraziamento alla città di Cefalù, che ci ha onorato dei suoi applausi, che ci ha resi orgogliosi di rappresentare questa meravigliosa isola sulla quale viviamo. Noi siamo orgogliosi di farlo, siamo orgogliosi di rappresentare la nostra Sicilia, e siamo orgogliosi di portare il nome non solo di Barcellona ma di tutta la Sicilia in giro per l'Italia, e dimostrare a chi sostiene il contrario che anche qui siamo capaci di fare delle cose belle. Sì, in che cosa può migliorare secondo te il Barcellona? Ecco, diciamo ancora siamo all'alba, alla fase iniziale. Io credo che la squadra abbia ampi margini di miglioramento sia in attacco che in difesa. Credo che quest'anno il nostro roster sia stato costruito con elementi di primo piano, con giocatori che alla lunga possono dare sempre di più. Del resto ricordiamoci che comunque soltanto due giocatori delle passate formazioni, delle passate stagioni, sono state confermate quest'anno, ragion per cui si tratta di un organico completamente nuovo che deve ovviamente amalgamarsi. Certo, e senti, in sostanza l'obiettivo del Barcellona qual è? Intanto vedete scorrere sul computer le immagini della partita tra Barcellona e Napoli. Dicevo, ecco, quali obiettivi si propone il Barcellona? Andare ai playoff? Mario, posso essere scaramantico? Sì. Allora, noi, sì, certo. negli anni passati eravamo partiti con grandi proclami, volevamo vincere il campionato, quest'anno ci teniamo un po' più bassi, quello che ci offrirà il campionato lo prendiamo. È chiaro che una squadra costruita come la nostra, con la nostra organizzazione societaria, la nostra organizzazione di squadra, punta in alto, punta a raggiungere qualcosa di storico per la città e per la provincia di Messina e per la Sicilia. E noi ci auguriamo che questi progetti vengano realizzati. Intanto oggi, domenica, tutti al campo Palatricoli per assistere a questo incontro che io ritengo molto interessante tra il Barcellona e il Forlì, e che può dare anche delle conferme sulla consistenza della squadra del Barcellona, ma anche delle altre squadre che sono venute, e noi ci auguriamo che questa parentesi cefaludese sia abbia i migliori auspici per il Barcellona. Ti ringraziamo per questa tua partecipazione. Mario, mi permetti di dire un'ultima sì. cosa? Ti sarei grato se mi permettessi di dire questo. Praticamente appunto hai detto una cosa importante, hai parlato di parentesi cefaludese, per noi è stata una bella parentesi, io ne approfitto, noi oggi al Palatricoli ringrazieremo ufficialmente il comune, la provincia regionale di Palermo per essersi messo a disposizione della nostra società e della nostra squadra, però un ringraziamento personale penso non solo a nome mio ma a nome di tutta la società lo voglio fare alla gente di Cefalù, agli applausi di cui parlavo prima, alla simpatia che ci ha manifestato, all'affetto che ci ha manifestato ed anche a tutte quelle persone che si sono messe a disposizione della nostra squadra, persino i responsabili della struttura, persino i custodi della struttura che ci hanno accolto sempre col sorriso sulle labbra e ci hanno voluto veramente bene, ci hanno fatto sentire a nostro agio, grazie a tutti. E tu l'hai fatto perfettamente, noi passiamo questi tuoi ringraziamenti a chi di dovere. Intanto in bocca al lupo oggi al campo, ricordo che questa trasmissione viene replicata lunedì alle ore 13:15 e da Angelo Arduini e Mario Lombardo è proprio tutto. Ringrazio Angelo Miccichè, presidente del distretto turistico di Cefalù e dei parchi delle Madonie e di Mera, Francesco Randone, presidente di Federalberghi Cefalù Madonie, Angelo Macaluso dell'agenzia turistica France Sicile, Flora Rizzo, presidente dell'Archeo Club, che ha ricordato Nico Marino. Ed è proprio tutto da Mario Lombardo e Angelo Arduino. Una felice giornata ai nostri radioascoltatori. Abbiamo trasmesso qua e là tra una novità e l'altra. CRM Pubblicità. Il mito diventa realtà. Remida.